Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. E nonostante questo, che ogni volta puriamo da tanto tempo che non ci sono più le mezze stagioni, quantomeno ci sono, come si può dire, degli eventi stagionali, dei riti che si ripetono, dei rituali. Se ricordatevi, ecco, che è arrivata l'ora X, nel senso che da stanotte alle 3 di notte si cambia l'ora, si porta indietro di un'ora. Il vantaggio è che dormiamo un'ora in più alle 3, se avete voglia di svegliarvi alle 3, se non fate prima di andare a letto, un'ora indietro. Il vantaggio, dormiremo un'ora in più, però non so voi che effetto fa, a me dispiace che ci sia un po' di luce in meno, un pochino deprime, però altri dicono no, sì, dice anche Paolo Corleone alla parte tecnica, così già subito lo ringrazio di partire insieme. Non so voi cosa ne pensiate, ma ovviamente voi sapete come sempre che il nocciolo, la questione, il cuore di Non ci sono più le mezze stagioni sono le notizie della settimana, quindi un bilancio da fare insieme. Il momento di tornare su alcune di queste che voi scegliete in piena libertà, con le vostre opinioni sempre estremamente libere. Quindi, che cosa vi ha colpito? Quali sono i fatti? Sono sempre tantissime anche questa settimana. Ce ne sarà quello che avete discusso di più con amici, conoscenti, colleghi, eccetera. Il numero verde, ve lo ricordo, è sempre 800 24 0024. Numero verde 800 24 0024. Per chi è abituato, spero in molti, a sentire Non ci sono più le mezze stagioni, sapete che io scelgo ogni settimana un opinionista estemporaneo, donna, uomo che sia, di qualsiasi provenienza, formazione, eccetera, basta che abbia scritto un libro. E questa settimana e questo sabato, signore e signori, la mia opinionista estemporanea è Jumana Haddad. Benvenuta Jumana. Grazie. Dritta dritta dal Libano, stamattina aveva l'aereo alle 3, è arrivata fresca come una rosa. Non tanto fresca, direi. Io ti vedo freschissima, brillante, ho già tirato fuori parecchie cose, ci siamo incontrate poco fa e io le ho chiesto, ero un po' preoccupata all'inizio quando l'ho scelta, perché dico, ma però l'italiano, essendo libanese, insomma, incespicherà un po', avrà un po' di difficoltà, invece lo parla quasi meglio di me, diciamo, insomma, io sono italiana, quindi cioè. E le ho chiesto, ma come mai parli così bene l'italiano? E lei mi ha risposto, non lo so, è un mistero, quindi ho detto, non mi dire altro, voglio che me lo spieghi in diretta per questo mistero, Jumana. Com'è? È veramente un mistero, è una cosa che mi domando anch'io, perché sono andata ad impararlo per 2 settimane, nell'87, cioè tanto tempo fa. Nata a Beirut, e quindi poi ho dovuto smettere perché è scattato un altro episodio di guerra a Beirut, e ho continuato un po' da sola, leggendo libri, ascoltando canzoni, e poi un primo viaggio in Italia dopo 3 anni e scopro che io parlo l'italiano benissimo. Quando quindi... si trance, no? Che si parla una lingua che magari non si è mai parlata, e lei, non so, è durata, ecco, questa trance. Deve essere una vita anteriore, io ci credo un po' a queste cose, sì? Quindi... Cioè, quello che è positivo, che mi fa comodo, ecco, che parli così bene italiano, così ci capiamo, così anche con gli ascoltatori e le ascoltatrici, sì, possiamo procedere a raccontarci un po' i fatti della settimana, esprimere opinioni. Jumana è, intanto ve lo specifico, scrittrice, poetessa, giornalista libanese, è responsabile delle pagine culturali del quotidiano libanese Anna Nahar. Nel 2006 ha ricevuto il premio del giornalismo arabo e le sue raccolte di poesie sono state tradotte e pubblicate in varie lingue. L'ultimo suo libro pubblicato dall'Asino d'Oro si intitola Il ritorno di Lilith, che è una raccolta di poesie, Jumana. E tra l'altro questa Lilith possiamo dire che è proprio la femminista antelitteram per antonomasia. Non utilizzerei la parola femminista, no. Ma direi è la femminilità forte, sicura di se stessa, anche nelle sue debolezze, perché ne abbiamo tanti, tutti, anche nei suoi errori, perché abbiamo il diritto di farli. Quindi per me è stata la scoperta della fonte originale della mia identità, della mia visione del mondo, questa donna forte che esisteva prima di Eva, che era fatta dalla terra così come Adamo, e che a un certo punto ha avuto abbastanza di obbedire senza ragione logica al maschio, e se n'è andata. E quindi a questo punto Dio creò Eva dalla costola di Adamo per garantire la sua obbedienza. Io parlo in questo libro di questa donna che, parlando anche di me stessa ovviamente, perché è la mia storia, ma perché ho sentito che abbiamo bisogno di questa figura. E quando dico che ne abbiamo bisogno, non solo nel mio mondo, cioè nel mondo arabo ovviamente nel mondo arabo ci sono tante donne a cui si ripeta sin dall'inizio: siete debole, siete oppresse, non potete fare niente, quindi si lasciano andare e hanno bisogno di questo, di questa energia che dà Lilith. Ma anche in Occidente, direi, perché c'è lo stesso errore, ma in un modo il contrario. Dicono sempre alle donne: già avete tutto, la lotta è stata fatta, quindi tutto sudato, non dovete se ne si lasciano anche loro andare, quindi hanno bisogno di Lilith per ricordarsi che la vera lotta non è ancora finita. Senti, io direi, Jumana, prima di iniziare con gli ascoltatori e le ascoltatrici e sentire qual è la loro notizia della settimana, il numero verde è 800 24 00 24, ce la leggi una delle tue poesie del ritorno di Lilith? Certo, eh? Guarda. Con grande piacere. Comincerò con un brano in arabo. Sì, va bene. Così e poi sentiamo anche un po' di arabo qui in diretta. Sì. Ana Lilith, ilahatu al-laylayn al-a'idatu min manfaha. Ana Lilith, al-mar'atu al-qadar. La yatamallasu dhakarun min qadari wa la yuridu dhakarun an yatamallas. المرأة القمران ليليت كل من يسمعني يستحق القتل وكل من لا يسمعني يقتله تبكيت ندمه. Poi Dio creò la donna a sua immagine, la creò dalla terra grezza, la creò dall'illusione di se stessa. Lilith, nei cui occhi il perduto amore, Lilith, preda, predatrice e loro unione, che canta come una colomba per domare il leone. Lei, soffice come una nuvola, cerea come una nuvola, che lega i suoi uomini e poi piange perché possano liberarsi. Lei, la sconosciuta, il cui passato sta nei sogni, forte nella sua femminilità e quindi dolce, che soffre per amore suo malgrado, che divora il cielo che come latte beve la luna. Lei, Lilith, per un istante tra le braccia, l'attimo dopo un'ombra lontana, senza certezze, senza bisogni, che parla per tutte le donne, per tutti gli uomini. Lilith, poeta demone, demone poeta, trovatela in me. Trovatela nei sogni, trovatela e prendete da lei quello che desiderate, prendete ogni cosa, prendete tutto. Nulla sarà mai abbastanza. Ecco, questa è una delle poesie appunto di questo ritorno di Lilith di Jumana Haddad. Però, dopo la poesia, prima di sentire le vostre opinioni, direi anche, come sempre di consueto, come si dice, di avere il nostro punto di vista, no, con questo collegamento, un punto di vista extraterreno, col collegamento con Marte. Riflessioni da Marte. Ed eccoci qui, come ogni sabato, quindi a guardare giù verso il globo terracqueo, dalla postazione fissa qui su Marte. Certo, sarebbe meglio avere un posto fisso piuttosto che una postazione fissa, è d'accordo anche su questo il ministro Tremonti, ma per ora elucubriamo dalla postazione fissa. Va detto che, tra l'altro, oltre al posto fisso c'è anche il pensiero fisso. Olindo Romano, per esempio, ve lo ricordate? Quello che con la moglie Rosa è stato condannato alla gattabuia in peritura per la strage a colpi di coltellaccio di Elba, ve lo ricordate? Ebbene, il suo pensiero fisso, lo dice proprio lui in questi giorni, l'ha detto, è Rosa. Il mio animo, dice egli affranto, senza di lei va in letargo. Beh, succede del resto anche al Ghiro, la Bisce, al Tasso, quindi nulla di strano per questo. D'altronde, è evidente, stiamo andando, a proposito delle stagioni, verso l'inverno. E sempre a proposito di pensiero fisso, sembra che i politici in Italia pensino sempre a quello, sia per proprio diletto che per colpire e affondare l'avversario. Che la politica stimoli per chissà quale misteriosa ragione una certa lacre attività di un certo tipo. Ma fosse solo questo, comunque. In ogni caso, avete sentito di quei due piloti della Northwest Airlines, compagnia aerea americana, che in questi giorni, discutendo animatamente tra di loro, si sono dimenticati di atterrare e sono rimasti in volo per altri 240 chilometri prima di accorgersi dell'errore e tornare indietro. Non avete sentito? Ebbene, speriamo che la classe politica italica, nelle sue spesso pirotecniche discussioni, non si dimentichi di atterrare sulla pista giusta al momento giusto. D'altronde, sul volo ci sono soltanto 60 milioni di italiani. Non ci sono più le mezze stagioni. Rieccoci di nuovo insieme, Roberta Giordano con voi per chiedervi, come ogni sabato, qual è la notizia che vi ha colpito di più, quali sono le vostre riflessioni. E con me, opinionista estemporanea di oggi, è Jumana Haddad, scrittrice, poetessa, giornalista libanese, responsabile delle pagine culturali del quotidiano libanese An-Nahda, che ha appena pubblicato con l'Asino d'Oro Il ritorno di Lilith. Ci sono moltissimi fatti questa settimana. Per esempio, io adesso chiederò a Jumana, dal suo punto di vista di donna libanese, cosa ne pensa del caso Marrazzo, no? Che è la cosa che è scoppiata più di recente nelle ultime ore. Però, come sempre, cercherò anche di farvi questa sintesi estrema di un miliardesimo, anzi è poco anche dire un miliardesimo, delle tantissime notizie che affollano il mondo ogni settimana. Appunto, il caso Marrazzo, sapete, è ricatto da parte di 4 carabinieri nei confronti del presidente della regione Lazio, avrebbero fatto irruzione in un appartamento dove lui era in atteggiamenti intimi con una persona transessuale. Poi l'avete sentito dal convegno, dal forum di Mantova delle piccole e medie imprese, Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, che ha ribadito appunto c'è un milione di piccole e medie imprese a rischio. L'elogio del posto fisso che ha fatto questa settimana, così a sorpresa, il ministro dell'economia Giulio Tremonti, Berlusconi che subito ha detto lo sostengo, è un valore effettivamente, poi scatenando polemiche perché dicono dov'è questo posto fisso. Stessa presidente Marcegaglia ha detto non è più la mentalità e le condizioni non ci sono più, insomma, quindi qualcuno dice si fanno proclami o è un'intenzione vera. Poi l'abolizione dell'IRAP, perché dopo diciamo il connubio tra Berlusconi e Tremonti invece ha creato tensione tra i due, perché invece Tremonti è contrario a questa cosa e non era stato avvertito. Poi la presunta trattativa tra Stato e mafia, continuano ad andare avanti le indagini, le deposizioni, quindi dei testi, dei testimoni. Domani, vi ricordo, ci sono le primarie del PD, bisognerà scegliere il segretario tra Franceschini, Bersani e Ignazio Marino. Non so se Jumana Haddad ha il suo punto di vista su questa cosa, sulla politica italiana, poi ci dirai se è una cosa che ti può interessare. È stato deciso l'election day, come si dice, 28 e 29 marzo per le elezioni amministrative e regionali. Abbiamo ancora un po' di tempo. E poi il Papa che ha aperto le porte agli anglicani dissidenti. Sapete, la Chiesa anglicana americana e inglese sta andando, diciamo, in avanti su molte cose, sia il sacerdozio femminile sia il sacerdozio dei gay. Allora quelli dissidenti, il Papa dice venite, rientrate nella Chiesa cattolica, facendo una specie di costituzione ad hoc per loro e tollerando che siano diversi di loro sposati, una cosa un po' particolare. Poi per quanto riguarda l'estero, le elezioni presidenziali afghane, sapete che si diceva che c'erano stati brogli con l'elezione di Karzai e quindi adesso lui ha accettato di fare il ballottaggio con quello che era il suo rivale, si farà il 7 novembre. L'Iran che continua a spostare in avanti la risposta alla comunità internazionale sul fatto che permetterà i controlli dell'Agenzia Internazionale sull'Energia Atomica nei luoghi, nei siti dove sta sviluppando appunto l'energia nucleare. Poi le navi dei veleni a largo della Calabria, è una questione che va avanti, si sta ritardando, si è ritardata per anni, ombre, inchieste fatte troppo frettolosamente, chiuse, insabbiamenti. Oggi c'è una manifestazione in Calabria, è bene ricordarlo per questo, e queste navi con rifiuti tossici e radioattivi che sono in fondo al mare della Calabria e tutto intorno, ce ne sono varie, è una bomba ambientale a orologeria, se già non ha creato già molti guai anche alla salute. Poi il Tribunale dei Ministri che ha archiviato l'inchiesta sui cosiddetti voli di Stato in cui era implicato Berlusconi, l'inchiesta di Napoli sugli appalti campani con raccomandazioni, con sponsor, appalti truccati in cui sono indagati anche Clemente Mastella e sua moglie Sandra Lonardo, che è presidente del Consiglio regionale. Il sito su Facebook, le minacce a Berlusconi, no? Uccidiamo Berlusconi era il titolo, che adesso è stato cambiato, quando Maroni ha detto va chiuso, è stato cambiato in Silvio rispondici, adesso che abbiamo avuto la tua attenzione, Silvio rispondici. Però poi si scopre in realtà che è pieno di inneggiamenti alla violenza verso vari altri, non so, sopprimiamo Franceschini, era iscritto anche un consigliere regionale leghista dell'Emilia Romagna che poi si è scusato, ma ha detto vabbè, ma sopprimiamo significa nel senso simbolico, però i termini. E poi l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, che ha detto da gennaio stop al pagamento dei mutui delle famiglie in difficoltà per un anno. In Congo migliaia di sfollati in mezzo alle violenze, anche in Africa, insomma, sembra non ci sia mai tranquillità. La libertà di stampa in Italia, che va indietro, almeno secondo il rapporto annuale di Reporters Sans Frontières, il nostro paese scivola dal 44esimo posto al 49esimo, invece c'è l'America di Obama che dal 40esimo sale al 20esimo di ben 20 posti. La morte di Giuliano Vassalli, partigiano giurista, ex ministro della giustizia, il Festival Internazionale del Cinema di Roma, dove ha vinto, secondo me a sorpresa, insomma, è stata una bella vittoria, Brotherhood di Nicolò Donato, regista italo-danese, è un film con una storia gay d'amore tra due uomini ambientata tra i gruppi neonazisti, sono due nazischi che scoprono di essere innamorati. Questa è un bella, diciamo, una bella crepa, no, in un mondo di questo tipo. Poi Formula 1, Jean Todt mette fine all'era Mosley, il nuovo presidente della FIA, Federazione Italiana Automobilismo. Calcio, Mourinho, il allenatore portoghese dell'Inter, che dice: i giovani pensano solo a soldi e macchine. Lo ha scoperto adesso e sembra la scoperta un po' dell'acqua calda. 800 24 00 24 per le vostre telefonate. Io chiedo a Giumana, prendiamo intanto la libertà di stampa nel tuo paese, Libano, come è considerato? Non l'ho guardato in classifica. Non parliamo. Ma comunque io vorrei dire una cosa, perché stamattina venendo in aereo ho letto un po' sul caso Marazzo, non so se ho abbastanza informazioni per dare la mia opinione, però leggendo tutti questi articoli ho pensato a una cosa, ho pensato che in Libano, il mio paese, i politici sono fatti per spingere la gente alla disperazione con la loro mediocrità, e qui in Italia sembra che sono fatti per divertire la gente con le loro avventure sessuali, e in tutti e due i casi non stanno facendo il loro vero dovere, cioè dirigere il paese e farlo progressare. Comunque c'è sempre questa grande discussione quando uno è un personaggio pubblico sui limiti tra la vita privata e la vita pubblica. Ma io vorrei dire a questo punto: una cosa è essere umani e avere le nostre debolezze, tutti li abbiamo, e subirle con umiltà e discrezione e provare magari a superarli. Un'altra cosa è vantarsi di questo comportamento. Quindi volevo solo rilevare questa sfumatura. Sì, diciamo, una cosa che per esempio a me piacerebbe sapere prima di Manuel dalla provincia di Milano, di sentire Manuel, è lo scandalo Marrazzo, anche se lui ha negato, poi dice sì, ho pagato per paura, questi quattro carabinieri ricattatori che hanno fatto irruzione in questo appartamento. Se lo scandalo sta nel fatto che c'è stato il ricatto, che oppure che era a letto con una persona transessuale, cioè fosse stato con una donna sarebbe andato tutto bene. Ecco qua, non capisco, non so gli ascoltatori cosa ne pensano. Cominciamo a sentire Manuel dalla provincia di Milano. Ciao Roberta. Ciao Manuel. Complimenti, è una bellissima voce. Io è la prima volta che chiamo. Grazie, mi fa piacere. Insomma, quando ci sono anche i neofiti vuol dire che si acquista altro pubblico. Quindi Manuel, spero che rimarrai anche nelle prossime puntate. Ma certamente. Io tra l'altro ascoltavo la trasmissione altre volte e l'ho trovata veramente bella, e poi il fatto come la conduci mi piace molto, insomma, anche gli interventi che ci sono. Grazie Manuel. Quindi la tua notizia della settimana che cos'è che ti ha colpito e su cosa vuoi dire la tua? Beh, sinceramente il problema grosso, secondo me, la cosa che più mi ha sconcertato è la questione della nave dei veleni. Queste navi dei veleni che si sa che sono state affondate in Calabria dalla 'Ndrangheta, e però questo è un problema che, voglio dire, si sapeva che esisteva, perché che ci fossero queste navi, questi relitti, si sapeva. Io quello che rimango sbalordito, Roberta, sinceramente, vedere, cioè, in un paese normale, secondo me, un altro paese democratico, io penso che il governo, ma anche l'opposizione, anche i media, darebbero un grande risalto a questa vicenda e parlerebbero in modo dettagliato di queste navi e chiederebbero, voglio dire, un resoconto giornaliero ai politici di quello che stanno facendo per recuperarli, gli chiederebbero di destinare delle risorse per il recupero di queste navi, perché il problema è che adesso qua è a rischio la salute delle persone che vivono in Calabria, che mangiano il pesce che arriva da quelle zone. Ma non ci possiamo dimenticare che poi il pesce viene pescato in Calabria, viene poi diciamo, venduto in tutta Italia, è un problema che coinvolge tutti. E poi c'è un problema che questi rifiuti hanno creato un danno gravissimo alla biodiversità marina, cioè le biozone sono state colpite in modo tremendo da questo sversamento di rifiuti tossici e radioattivi. Io sono molto contenta, Manuel, che tu abbia scelto questa notizia, al di là che hanno tutte per me lo stesso valore, la stessa dignità quando ne parlate, però è davvero un fatto così eclatante, così vergognoso, così veramente, come si può dire, inconcepibile, veramente inconcepibile, perché sembra che questa cosa si sapesse da tempo, le indagini andavano avanti, poi le inchieste venivano chiuse, poi... Insomma, come si fa a tollerare una cosa del genere e a non fare in fretta? A proposito prima delle riflessioni marziane, della marziana che diceva il posto fisso e il pensiero fisso, questo dovrebbe essere uno dei pensieri fissi in questo momento del governo e delle istituzioni italiane. Si parla di una nave, ma in realtà potrebbe essercene una trentina tra Calabria, le coste italiane, un po' verso la Grecia, con chissà quale tipo di rifiuti. Si parla di rifiuti tossici e radioattivi, è davvero una bomba ambientale, già sembra che abbia creato problemi grossi di salute, tumori in Calabria, e come dicevi tu è un problema che si allarga, che non si può restringere in una goccia lì circoscritta, ma anche fosse quello sarebbe già gravissimo. Grazie Manuel, oggi dicevo c'è questa protesta in Calabria proprio per ricordare che questa questione enorme c'è e che presto ci si occupi di questo. Grazie Manuel. Non ci sono più le mezze stagioni. Siete sempre lì, io sono sempre qui, Roberta Giordano con voi sino alle 15 ogni sabato, qui non ci sono più le mezze stagioni, per ritornare insieme sui fatti di una settimana che si sta appena chiudendo. Con me, opinionista estemporanea di oggi, è Jumana Haddad, scrittrice, poetessa, giornalista libanese che ha appena pubblicato Il ritorno di Lilith, editrice L'Asino d'Oro. E tra l'altro ricordiamo, Jumana, che per chi fosse a Milano e volesse presenziare alla presentazione del libro, che sarà presentato da Gad Lerner, no, tra l'altro. Sì. Milano cos'è? Martedì? No, martedì alla Feltrinelli di Via Manzoni alle 6. Ecco, quindi se volete seguire direttamente la presentazione del libro e capire anche la scrittrice, poetessa e giornalista Jumana Haddad, oltre a seguirla qui, se siete a Milano, ecco, quello può essere. A che ora hai detto? Alle 6 di alle sera. 6, sì. Alle 6 di sera, martedì. Ritorniamo sulle notizie della settimana delle ascoltatrici e ascoltatori. Direi di sentire Carlo da Pavia. Sì, buongiorno, grazie per lo spazio che mi date. Grazie a te, Carlo. Volevo fare un intervento su un evento che è stato, a cui è stato dato pochissimo spazio, quello dell'arresto della moglie di Abelli, penso sia il vice capo coordinatore del Polo di Libertà, la moglie assessore a Pavia, è stata praticamente arrestata e da quel che ho capito è stata messa in uno stato di non poter ricevere visite. Stai parlando dello scandalo dei presunti fondi neri nell'attività di bonifica dell'area Monte City a Santa Giulia, quartiere di Milano, sì. Esatto, sì. Ecco, penso che i magistrati abbiano utilizzato appunto questo divieto per evitare che vengano inquinate le prove. E questo politico, diciamo, Abelli, visto che non poteva incontrare la moglie come marito, si è avvalso del potere che hanno i parlamentari, sì, sì, poter visitare le carceri, e quindi praticamente quando era stato disposto dai magistrati è stato girato. Penso che questo sia palesemente un uso improprio di questo potere, ma non mi sembra che fino a questo momento qualcuno sia... questa cosa sia stata messa... Hai ragione, Carlo, hai ragione, perché al di là umanamente che sia comprensibile che un marito voglia trovare una moglie e il marito, però quando ci sono di mezzo questioni truffaldine di questo tipo e comunque delle leggi che vietano questo tipo di incontri, non si può aggirare la legge come tipico italiano, insomma, dicendo ma io sono parlamentare e usufruisco di questo di questa possibilità, no, che ha un parlamentare, perché allora se vale per quello deve valere anche per tutti gli altri cittadini italiani, siamo sempre, no, con doppio pesismo, due pesi e due misure. Ecco, mi scusi, se mi è possibile anche un piccolo inciso su Marrazzo. Sì. Penso che la sua sia una posizione assolutamente indifendibile e questo suo atteggiamento, dalle cose che ho sentito, mi sembra che almeno ai miei occhi vada ad aggravare ancora di più la sua posizione. Quale atteggiamento, dicevi, Carlo? Cioè... Ma che si richiama alla privacy, cerca di dire che praticamente è una montatura, mi sembra che sia proprio un approccio assolutamente sbagliato. Ma questo appunto bisognerà verificarlo. In ogni caso, secondo te è scandaloso che una persona in una casa privata... Okay. No, però mi sembra che ci siano già degli elementi, anche se uno già paga praticamente dei soldi, vuol dire che praticamente si fa ricattare, perché è dimostrato che lui ha dato degli assegni. Sì, adesso è dimostrato. Comunque, se fosse stato il reato, forse credo sia più il ricatto, no? Che no, però intanto si verificherà. Carlo, ti ringrazio. Intanto vi leggo un'agenzia dell'ANSA arrivata da pochissimo. Ho visto una persona che forse somigliava a Marrazzo, ma non sono sicuro, non so dire con certezza se si trattasse del presidente Marrazzo o no. E questo l'ha detto il maresciallo Antonio Tamburino, uno dei quattro carabinieri fermati appunto per questo ricatto al governatore del Lazio durante l'interrogatorio di garanzia che è terminato pochi minuti fa nel carcere di Regina Coeli. A riferire queste parole del maresciallo è l'avvocato legale Mario Griffo, quindi qualcuno comincia a ritrattare. Adesso comunque vedremo. Luigi da Torino. Salve, salve. Buongiorno Luigi. Io volevo fare una considerazione. Ultimamente con questi scandali sessuali, anche l'altro anno, 2-3 anni fa, accompagnato allo scandalo sessuale in sé, si parla sempre di droga, di cocaina, ecco, cocaina su specchi, su vetri, su tutti i modi, cannule per tirare cocaina e via dicendo. Anche quando il fatto poi è una cosa che veramente è accaduta, che a un certo punto ognuno è libero di fare quello che vuole, politico o non politico, può andare a pagare una persona, può fare ciò che vuole, per me personalmente, penso per la maggior parte degli italiani, ognuno è libero. Il problema grosso è che questa gente, Presidente del Consiglio, se poi è vero, o un Presidente di Regione, un assessore qualunque, ci dovrebbe tutelare dalla droga, ma non tanto a me non interessa se va con la donna a pagamento o col trans, a me interessa che in questi festini c'è tanta di quella droga e non si parla mai né la provenienza, né mai un arresto per dire ha fornito la droga al trans che ha fatto il festino con l'assessore o il politico. Cioè, è sempre in secondo piano, anche stamattina sui giornali c'è la storia di Marrazzo, vera o falsa che sia, e si parla di droga in secondo piano, come se su un piattino c'era poi delle strisce di cocaina che magari qualcuno si rifava. Luigi, appunto, adesso al di là che bisognerà verificare se è vero o non è vero, era lui o non era lui in questo video, leggevo ieri che questa cocaina, questa polvere bianca perlomeno, era vicino al suo tesserino politico ed è come se fossero stati messi insieme apposta. Però al di là di questo, in linea generale, credo tu abbia ragione, ma vi ricordate che le Iene qualche tempo fa avevano fatto questo servizio, avevano scoperto che molti parlamentari insomma fanno uso. Giumana, tu vuoi dire qualcosa a proposito di questo? No, ma direi che ovviamente ha molto ragione l'ascoltatore che parlava, perché la droga è un cancro che in cui non vedo nessuna possibilità di spiegazione o di giustificazione, e dobbiamo parlarne di più dappertutto, cercare di accusare, di svelare, di lottare contro il traffico. 800 24 00 24, ci sono ancora molte ascoltatrici e ascoltatori, c'è Mimma da Milano, Fabio da Cosenza, Maria Clara da Catania. Allora vediamo se facciamo interventi sintetici riusciamo a passare un po' tutti. Fabio da Cosenza. Salve, buonasera a tutti voi, mi sentite? Fabio da Cosenza, quindi per te è sera già alle 14.40, come si usa da Toscana in giù. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, come vuoi. Ecco, io mi sto recando dove? Ad Amantea, dove c'è la manifestazione contro la nave dei veleni. Certo, certo. E niente, volevo solo dire e precisare che non è un problema calabrese, ma è un problema nazionale, se non addirittura di tutto il bacino del Mediterraneo. Anche perché siccome non si conoscono né la quantità di navi né il contenuto, farebbe bene l'Italia intera o addirittura l'Europa intera ad occuparsi del problema, perché troppe volte sento parlare in televisione anche durante i TG problema calabrese, problema della gente di Calabria, dell'Andrangheta, la gente che si fa un po' prendere la mano all'Andrangheta. Intanto non è vero, perché chi vi parla è una persona che vive del proprio lavoro e non ha mai dato sostegno a nessuno di questa, a nulla di queste cose. Certo. Tanto più che il pentito ha dichiarato che c'è stato un intreccio tra mafia, cioè quindi tra 'Ndrangheta, politica e istituzioni, il che significa insomma che la cosa va ben al di là della gente di Calabria, no, come responsabilità. E altra sottolineatura è che mi sembra veramente pazzesco che nessuno riesca a capire il problema grosso che c'è per la salute nazionale, e quando dico nazionale lo ribadisco, perché veramente nessuno riesce a capire qual è il contenuto delle navi, non so se rendo l'idea. E certo, se non ci si decide di andare a vedere, no. Ecco, poi un'altra cosa, nella zona di Amantea si precisava sui giornali settimane fa che è stata scavata una buca profonda 30 metri, il che significa un palazzo di 20 piani più o meno, no? Di 15 piani, cioè una cosa abnorme. 30 metri di profondità significa probabilmente larga almeno un 50-100 metri. Cioè, voglio dire, nessuno ha visto i camion che trasportavano, come qualcuno scriveva sui giornali, dalla Giodi Rosso a questa buca profonda 30 metri, larga 100, cioè tutto questo movimento di terra, cioè, nessuno ha visto niente, cioè le istituzioni, chi era preposto in quel momento, i consiglieri comunali, cioè nessuno ha visto niente, o c'era qualcuno che in qualche modo faceva filtrare tutta questa roba. Fabio, fatevi sentire, mi raccomando, oggi con questa manifestazione date seguito se non ci sono risposte. Sì, allora l'ultima cosa invece devo dire su Marrazzo, che è veramente vergognoso, è veramente l'Italia dei veleni. L'unica cosa in cui lui ha sbagliato è farsi prendere la mano dall'accettare il ricatto, e quindi una persona che guida le istituzioni nazionali come la regione, la regione Lazio, insomma, avrebbe dovuto fin dal primo momento recarsi direttamente in procura, denunciare gli estorsori e andare anche in televisione e raccontare del suo ricatto. Cioè, forse Fabio, certo, avrebbe dovuto fare un po' come ha fatto David Letterman negli Stati Uniti, no? Sapete, il conduttore di Nightline, il famoso programma da tanti anni in onda, che a un certo punto ha detto all'inizio trasmissione: scusate, vi devo dire una cosa al pubblico, e ha detto sono ricattato perché ho avuto rapporti con mie collaboratrici e quindi, insomma, poi mi sono rivolto alla polizia perché mi stanno chiedendo milioni, eccetera. Forse è meglio, se è andata così, se è veramente stato a dire tranquillamente come è andata la questione. Grazie Fabio. Volevo chiederti, Jumana Haddad, sulla questione ecologica, no? Abbiamo detto questa vergogna che riguarda la Calabria, ma il Mediterraneo, buona parte del bacino mediterraneo. In Libano, da un punto di vista di presa di coscienza ecologica, ambientale, come è stata? No, la situazione è terribile. Sai, Roberta, che condividiamo lo stesso mare, il certo. Mio mare è il Mediterraneo. E comunque c'è un'assoluta mancanza di un minimo di coscienza ecologica. Purtroppo nel Libano c'è tanto inquinamento e ci sono dei movimenti che stanno provando di fare qualcosa, ma sono così impotenti e così cioè privi di potere e di mezzi finanziari per fare qualcosa, che il loro effetto è quasi zero. Forse perché il Libano è un paese che fino a poco tempo fa, non so adesso, ha avuto altre priorità, no? Con la guerra che ritornava più riprese. Ma non si possono classificare così, perché anche questa è una priorità, certo. Anche se la guerra uccide, ma anche l'inquinamento uccide, uccide anche a lungo termine, sta uccidendo adesso tutte le generazioni che verranno dopo di noi, quindi è un crimine, si deve fare qualcosa. 800 24 00 24 per le vostre notizie della settimana. Prima di andare con la viabilità, voglio chiedere a Mimma da Milano, mi dici la tua Mimma, la tua notizia, e poi ne parliamo dopo. Ecco, io volevo dire la mia opinione sul fatto che è coinvolto Marrazzo. Benissimo. Allora ce lo dici dopo. Non ci sono più le mezze stagioni. Abbiamo ancora circa un quarto d'ora insieme, se volete ritornare sulle notizie della settimana con le vostre opinioni. 800 24 00 24, Roberta Giordano con voi. Al mio fianco oggi come opinionista estemporanea c'è Jumana Haddad, che è giornalista, poetessa, scrittrice, appena pubblicato il libro Il ritorno di Lilith, edizioni Asino d'Oro. Quindi c'era Mimma che mi stava dicendo da Milano che la notizia sulla quale vuoi tornare è il caso Marrazzo, Mimma. Ecco, io penso che il fatto che Marrazzo sia stato trovato con un transessuale è una cosa che rientra nella sua sfera privata, purché questa persona sia maggiorenne, non è stata utilizzata una scorta, non ha usato locali istituzionali, non ha pagato questa persona con soldi pubblici. Poi, ecco, già se c'è la droga... Aggiungerei da parte mia che questa persona non sia sfruttata, nel senso, se è un professionista, diciamo così, non ci sia un magnaccio, un papone, come si dice, che lo sfrutta. Non sia stato commesso un reato di questo. Poi se c'è droga, ecco là, la cosa diventerebbe più grave, perché insomma, bisogna vedere da dove proviene questa droga, che uso ne fanno. Però quello che a me ha colpito, che non mi sembra che vada bene... qualora il fatto sarà provato, naturalmente, perché fino adesso si parla di questa notizia, ma non si sa al 100%. Con certezza, certo. Però ecco, qualora sarà provato, il suo atteggiamento all'intervista di negare dicendo che è stato un fotomontaggio, che avrebbe chiesto la perizia sulla firma degli assegni, ecco, qualora dovesse essere provato, una cosa mi sembra molto grave, perché insomma è vero che lui comunque rappresenta le istituzioni nella sua vita privata, se non ha commesso reati può fare quello che vuole, però se la cosa sarà provata avrebbe dovuto avere il buon senso di dire è un fatto che riguarda la mia sfera privata. Sono e comunque denunciare il ricatto che ha subito. Grazie, stavo guardando che si stava cancellando una cosa sul video, ti ringrazio. Mim, mi sembra giustamente un ragionamento di buon senso, ecco, se nel caso fosse vero è meglio dirle tranquillamente le cose, visto che insomma io vorrei sperare che ognuno, se non ostenta, se non ci sono appunto di mezzo reati, se non ci sono altre implicazioni, traffici, cose eccetera, che uno insomma va letto con chi gli pare. C'è Maria Clara da Catania. Ciao Roberta, ciao Maria Clara. Ciao a tutti, bellissima la vostra trasmissione, grazie dello spazio che ci concedete. Grazie Maria Clara. Velocemente, io volevo parlare del problema delle piccole e medie imprese. Sì. Io sono la titolare di una piccola impresa, una piccola società cooperativa di Catania, in Sicilia. E abbiamo realizzato, io mi trovo in questo momento veramente sull'orlo del baratro, perché purtroppo, così come si dice, come si è visto, noi titolari di piccole e medie imprese abbiamo il problema di arrivare a coprire tutte le nostre spese e non abbiamo aiuti da parte di nessuno. Noi abbiamo fatto un grosso passo, abbiamo aperto un bellissimo teatro all'interno di un parco archeologico, e questo teatro, naturalmente aprendolo, avendo anche i contributi della regione, che però naturalmente bisogna prima anticiparli, quindi bisogna prima anticipare con un proprio capitale e poi aspettare i tempi per poter poi avere questi contributi. Nel frattempo cosa succede? Cosa succede? Che poi naturalmente le piccole e medie imprese che non vengono aiutate muoiono, falliscono, e quindi poi alla fine neanche si potrà prendere neanche il contributo. Quindi questo nostro movimento nei confronti della cultura, perché poi l'abbiamo voluto comunque aprire lo stesso, pur avendo le difficoltà economiche, io ho dovuto anche mettere dentro il mio patrimonio, la mia casa, l'ho impegnata, eccetera. Posso chiederti, Maria Clara, quanti dipendenti hai? Io in questo momento ho pochi dipendenti, perché abbiamo soltanto 3 dipendenti, però comunque è una piccolissima realtà che ha voluto dare un contributo alla cultura siciliana. Il problema è che se non c'è qualcosa di concreto, perché vede, l'IRAP ok, la vogliono togliere, però è sempre una cosa di cui non hanno ancora detto in quanto tempo la vogliono togliere, perché potrebbe essere in 5 anni e noi già siamo ben morti e sepolti. Guarda Maria Clara, il problema non è soltanto quello, il problema è che ci vuole qualcosa di concreto, cioè un aiuto, un fondo messo da parte, proprio perché le banche non ci aiutano, se non sei conosciuto, soprattutto qua è una realtà particolare, perché qui le raccomandazioni fioccano, e quindi il problema è questo. Scusa la mia concitatezza, giustamente, però... No, sei stata molto lucida, molto precisa, molto appassionata, Maria Clara, ci mancherebbe, appunto, da piccola imprenditrice. Ti ringrazio da Catania e ti ricordo che Angela Merkel, la cancelliera tedesca, ha annunciato oggi che a partire da gennaio 2010 ci sarà taglierà le tasse, ci sarà l'adozione della riforma fiscale, la Marcegaglia ha detto insomma lì fanno i fatti, vediamo anche noi di fare qualcosa. Allora io direi a questo punto, Jumana Haddad, prima di sentire tra pochi istanti che tempo ci aspetta nei prossimi giorni, fra le altre cose continua a chiamare sul caso Marrazzo e c'è Antonella Migliaccio, gentilmente, che sta gestendo tutte le telefonate, ne sta passando tante, ma c'è qualche altra notizia che ti ha colpito? Sì, infatti vorrei parlare di un'altra cosa che mi ha colpito molto leggendo i giornali stamattina, ed è il caso del bullismo di cui è stato vittima un tredicenne in una scuola a Torino. Vorrei dire che il bullismo è un È un grande problema soprattutto d'educazione, dall'educazione non solo dai genitori ma anche dalla società, perché stiamo vivendo in una cultura globale dell'intimidazione e non solo i ragazzi a scuola praticano il bullismo, anche i leader politici lo praticano, anche i poteri religiosi praticano il bullismo, le multinazionali praticano il bullismo, le società patriarcali anche, e quindi si tratta soprattutto di dire no a questa tendenza ad approfittare dalla debolezza degli altri e di combattere la logica del forte che vuole divorare l'indifeso. E quindi dobbiamo dire no a tutti questi compromessi, anche se ci costa a volte e paghiamo un prezzo alto, ma è una cultura che comincia da un tredicenne ma che continua tutta la vita. Certamente, il primato dell'arroganza, insomma, di cui ancora non riusciamo a liberarci nonostante siamo società progredita. Direi allora di proprio in pochi secondi di sapere che insomma sole, piogge, che sarà? Carissimo colonnello Mario Giuliacci, abbiamo proprio pochi secondi, poi c'è anche la nostra Valeria Della Valle, riesci a dirci in due parole, perdonami colonnello, siamo entrati con sette minuti di ritardo. Sì, mi lasci poco tempo per il tempo, ma sarà breve, sì. Dai. Ecco, un saluto a tutti, in particolare a te. Bene, dopo due settimane fa abbiamo avuto il freddo, una settimana fa abbiamo avuto la pioggia, adesso l'autunno ci presenta il suo terzo aspetto, sarà la settimana della nebbia, bel tempo, bel tempo dalle Alpi alla Sicilia, ma attenzione, soprattutto al nord e in parte al centro le nebbie faranno da padrone, ma nebbie via via in intensificazione, quindi potremmo dire nebbione, quindi chi si deve mettere in viaggio lo sa con prudenza, notizia infausta veramente, ecco, grazie, riassumere tutto così. Grazie colonnello, ti abbraccio, mi scuso per questa proprio sintesi estrema. Non ti preoccupare, un salutone a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie a te, un solare fine settimana possibilmente senza nebbie. Abbiamo ancora pochi secondi, c'è Valeria Della Valle, la mia linguista della sapienza di Roma, che è veramente la donna più pronta, più veloce del West come sempre. Allora io direi, si è parlato di posto fisso, Valeria, al contrario è la flessibilità, però è molto ambiguo di per sé questo termine flessibilità, perché quanto ci si può flettere fino a non spezzarsi? Dici qualcosa, diciamo, sulla flessibilità. Intanto ricordo che la parola inizialmente, a partire addirittura dal 400, aveva il significato che tutti conosciamo, cioè la caratteristica di ciò che è flessibile, pieghevole, oppure in senso figurato una duttilità, e l'abbiamo sempre usata così, ma con un'influenza dalla corrispondente parola inglese flexibility, ecco che la parola ha assunto nel corso del tempo significati particolari in economia. Non sto a ricordarli tutti per la velocità che ci contraddistingue, ma quello che ci interessa è invece questo nuovo significato, relativamente nuovo, che indica la disponibilità a cambiare spesso posto di lavoro oppure a cambiare le mansioni. Allora, quello che un po' sorprende è che quindi si nomina il posto fisso. Qual è il contrario del posto fisso? Il posto precario. Però precario naturalmente ha una connotazione fortemente negativa, no? Fa già intuire tutto quello che c'è di fragile, di incerto rispetto al futuro di chi ha quel tipo di posto di lavoro. E allora ecco che in fondo si preferisce questa flessibilità. Insomma, per concludere sempre più velocemente, i lavoratori piacciono se sono flessibili, quindi pieghevoli, sia in senso concreto che in senso figurato. Grazie Valeria Della Valle, ti chiedo ancora scusa in ginocchio, proprio flessa, proprio flessibilità davanti a te, così agli ascoltatori e ascoltatrici che non sono riusciti a passare perché abbiamo iniziato con 6 minuti e più di ritardo. Jumana Haddad, il ritorno di Lilith, un commento che vuoi fare proprio in 30 secondi di chiusura. Va bene, allora sarà un appello alla ricerca di Lilith dentro di ognuno di noi, e per quelli che vorranno saperne di più su di lei, gli ricordo che martedì sarò alla libreria Feltrinelli di via Manzoni con Gad Lerner e anche con la mia traduttrice Oriana Capezio, e ti ringrazio, è stato un grande piacere essere qui con te. Grazie, per me avrei voluto avere più tempo ma già stiamo sforando terribilmente. Saluto Jumana Haddad e grazie all'ascoltatrice e agli ascoltatori, noi ci risentiamo sabato prossimo anche se non abbiamo avuto abbastanza tempo adesso. Da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti a tutti.